e sulla consueta sigla della 25esima ora andiamo a salutare e a darvi il benvenuto a questo mercoledì 18 di luglio. Sono le 22:43 minuti primi dalle frequenze di Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale. E questa sera la dicitura anatemi e rifiuti urbani prenderà una piega sicuramente interessante, perché ci sono venuti a trovare degli amici. E ci faremo una chiacchierata più tardi. Loro sono i Misanthropus. Ed iniziamo le selezioni di questa sera. Ed il primo pensiero questa sera va ad Alberto. E tutti gli altri ostaggi. E lasciamo che le note di questo pezzo vadano un po' a raccontare le emozioni che abbiamo dentro. E cerchiamo di avere uno slancio di energia positiva, anche se è difficile. Il pezzo è dei Kina, Questi anni. Solo da più cicatrici di prima, sorrido un po' meno, forse penso di più. Ed andiamo a rinnovare sul finire del pezzo dei China. Tutta la nostra sensibilità. Per chi è stato privato del dono più prezioso che è la libertà. e con gli Ataraxia. Il pezzo era Le ore rosa di Mazenderan. Siamo andati un po' a preparare il terreno spirituale per questa serata con ospiti i Misanthropus, che andiamo a presentare e con la consueta prova del microfono in diretta, perché a noi ci piace così, siccome non l'abbiamo provato prima il microfono, però per natura non mi fido di nulla e voglio il riscontro diretto. Ci siamo? E infatti siamo un po' silenziosi, andiamo a provare l'altro microfono. È proprio lui, lo sento, questo vibra. Eh? Ok, io ripeto quello che ho detto in precedenza. Ciao da Alessio, grazie a Dario per l'invito e logicamente grazie a Radio Onda Rossa per questa opportunità. Vi passo mio fratello Vincenzo. Buonasera a tutte e a tutti da Vincenzo. Allora, Misanthropus, formazione di Latina, se non sbaglio. I componenti, diciamo, Vincenzo al basso, se non... Sì, io al basso elettrico e Alessio alla chitarra elettrica. Alla chitarra. E poi il batterista questa sera non c'è, lo salutiamo. Un saluto ad Andrea Vozza. Andrea Vozza. E allora, formazione che vogliamo un po' ripercorrere la storia dei Misanthropus. Sì, certo, in breve, Misanthropus nasce nel 1998, nell'aprile del 98, dopo 10 anni di vari esperimenti sonori che ci hanno portato poi a definire quello che è il nostro stile, e cioè un miscuglio tra sonorità dark doom metal e qualcosa di hard rock degli anni 70. E partiamo nel 1998 fino ad oggi abbiamo realizzato un LP in vinile nel 2000, seguito nel 2003 da un EP sempre in vinile, e poi nel 2007 il primo LP è stato ristampato 2 volte su compact disc. La nostra peculiarità è quella di aver fuso sonorità tipicamente dark doom metal con il fatto di essere completamente strumentali. Penso che siamo stati il primo gruppo al mondo a proporre questo tipo di sonorità, cioè dark doom metal completamente strumentali. Aspetto magari di venire smentito, ma questo è quanto. Io mi ricordo, insomma, di leggere l'uscita di Misanthropus su varie distro, e la definizione di Misanthropus, ditemi voi se vi ci ritrovate, era punk alla San Vitus. Non so se l'avete letto un po' in giro, la definizione era doom punk alla San Vitus. Allora, guarda, sicuramente c'è qualcosa di punk. Noi, vabbè, proveniamo da ascolti che vanno dal heavy metal al punk, all'hardcore, al dark, alla new wave. Quindi sicuramente delle influenze punk ci sono. Non è il classico doom, sai, ultra lento. È anche un doom, oserei dire, dinamico, nel senso che può avere dei riferimenti punk o hardcore. Qualcuno ci ha definito addirittura i Melvins italiani, però poi bisogna ascoltare, non so. Ma un po' poi chi vi conosce un po', che ha visto i vostri concerti, avrà notato, insomma, l'attitudine non proprio, se mi passate la definizione, mediamente metal, insomma, le emozioni sono minimali, poco visualmente coatti, insomma, no? Ve lo posso dire? Sicuramente non sono coatte. Ecco. Insomma, date il messaggio un po' di introspezione. Certo, anche un messaggio spirituale, comunque molto personale, ecco. Sicuramente si distacca dai classici cliché del doom classico, nel senso, abbiamo detto più volte, dai classici cimiteri o quant'altro, insomma, il nostro è comunque, vuole essere un messaggio più che sonoro, anche proprio un messaggio spirituale. Ma se posso accostare anche il fatto dei colori, voi avete iniziato con il primo disco in cui il colore predominante era il viola. Certo. Quasi viola e nero. Viola e nero, esatto. Insomma, Black and Violet, esatto. Ricorderà qualcosa a qualcuno più addentro? Allora, sì, abbiamo avuto un percorso lungo e travagliato, ma lascio la parola a Vincenzo che spiegherà il tutto. Allora, noi partiamo come classico gruppo dark doom metal. Sottolineo metal perché in ogni caso in questo genere musicale ci sono stati e ci sono tuttora dei gruppi che hanno provato a portare un discorso sicuramente più elitario, nel senso che nel marasma dell'heavy metal ci sono gruppi che hanno provato ad andare un po' al di là di quello che sono i cliché del genere. Noi, nella fattispecie, per ritornare alla tua domanda, siamo partiti con quel tipo di estetica perché, per forza di cose, uno parte da un'influenza ben precisa. Poi, nel corso del tempo, è chiaro che uno subisce un'evoluzione che rispecchia poi quella che è una crescita personale, no? E abbiamo pensato di trasportare questo tipo di evoluzione anche in quello che erano i nostri prodotti post primo LP. E abbiamo pensato bene di ristampare il primo disco con una differente versione grafica e cambiando i titoli dei pezzi, proprio per evidenziare questo nostro percorso evolutivo, questa nostra evoluzione spirituale che poi ci ha portato a fare questo tipo di scelta. In ogni caso, non ripudiamo quello che è stato il nostro incipit, perché va sottolineato che in ogni caso il dark doom metal è uno dei generi, dei sottogeneri del rock in generale, che si presta di più a un certo tipo di introspezione spirituale. Fatto sta che un certo tipo di estetica, anche quello di usare delle raffigurazioni dei cimiteri oppure della croce, diciamo, esprime un contenuto, una sostanza che è anche interessante nei classici gruppi dark doom, perché comunque va riconosciuto un merito grosso a questo tipo di genere, cioè il fatto di voler portare l'ascoltatore a un'introspezione di se stesso e a un'analisi più approfondita di quello che ci circonda. Rispetto ad altri generi un pochino più diciamo così di relax, come potrebbero essere, che ne so, il glam o altri generi. Quindi gli va riconosciuto un merito a questo filone della musica rock. Noi poi l'abbiamo sviluppato alla nostra maniera, quindi cercando una strada nostra personale che ci permettesse di esprimere quello che adesso siamo, dopo però questi anni di lavoro, insomma. E, insomma, dall'inizio, insomma, nero e viola, andiamo sulle ultime vesti grafiche di un verde brillante, un verde bosco. Sì. Quindi, se prima avevate l'immagine del teschio e della croce, vediamo sulle vostre copertine, sulle vostre maglie, l'albero o la lumaca, comunque simboli vivi, simboli di vita. E allora, caro Dario, qui appunto bisogna fare un discorso anche molto netto, e cioè viviamo dei tempi difficili dove la musica certamente va vista come relax, intrattenimento, perché giustamente deve essere così. Però, ripeto, viviamo dei momenti, dei tempi molto difficili, per cui entrambi, Alessio e io, abbiamo sentito l'esigenza di focalizzare di più tematiche più importanti, più, più interessanti, cioè la salvaguardia dell'ambiente, l'ecologia, proprio perché ci troviamo in una situazione storica dell'umanità in cui purtroppo, se continuiamo su questa strada, ci stiamo incamminando in una, in un pozzo senza fondo, insomma, In una devastazione totale. Purtroppo sì. E andiamo un po' a leggere i titoli del dell'LP dei Misanthropus, che appunto ci indicano Sun, Rain, Wind, Water, Fire, Moon. Ne vogliamo parlare di questo, di questa, di queste indicazioni elementali? Allora, praticamente quelli che leggi sono i titoli cambiati del primo LP. E chi ha il primo disco in vinile sa che i titoli sono totalmente diversi. Proprio come ha detto poco fa Vincenzo, per il nostro cambiamento, questa nostra evoluzione, abbiamo cambiato addirittura i titoli. I pezzi sono gli stessi che si trovano sul primo vinile del 2000, ma i titoli sono totalmente diversi. E magari ce lo andiamo ad ascoltare direttamente, un pezzo vostro, e mettiamo Sun. Sun, il sole è l'occhio di Dio, diciamo. Se non esistesse il sole non staremmo qui a parlare in questa serata. E allora illuminatevi. ed il pezzo era Sun, appunto, dai Misanthropus. E alle 23:13 andiamo a ricordare che siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza. E andiamo a ricordare i contatti della radio che non abbiamo fatto ad inizio trasmissione. Potete raggiungerci per telefono allo 0649 1750. E i vostri trillini sono... ci mancano i vostri trillini, quindi mi raccomando. Ora ci sono. Sì. Vado in onda. Benissimo, sì. Vedi, quindi sono ritornato anch'io. No, invece stavo qui perché il fantasma io stasera. Sì, stavo nascosto da una parte. Quel microfono va tenuto delicatamente, perché vai e vieni. Sembri un fantasma che... Il microfono è fantasma. Appare il microfono è fantasma. Dovrebbe essere il microfono. Però involontariamente, perché io sono fantasma, al contrario tu, che ancora non sono padrone bene dei mezzi, dell'attraversamento dei muri, di tutte queste facoltà che tu hai. Dopo 35.000 anni cominci a farci l'abitudine, devo dire che... No, vabbè, da poco. Senti, no, invece no, interessante l'incipit di questa chiacchierata di questa sera con i Misanthropus e niente, insomma, sì, mandiamo, c'è anche chi trilla rotta de collo, il diciamo. Trillo. Il trillo rotta de collo che è 0649 1750. E non so, vabbè, magari vai avanti te con altre domande, poi mi posso inserire io, che già sono come stato no? Stimolato, però attualmente, diciamo, e mi sono perso il filo come al solito. Ma no, ma ci sono io, insomma, non... Ma sì, ti capisco, insomma, queste defaianze possono accadere per voi umani. E volevo chiedere ai Misanthropus, su questa registrazione già, che batterista vogliamo guardare? Su questo disco il batterista era Massimiliano Bergo, che è stato uno dei nostri primissimi batteristi. Lo vogliamo ricordare chi era Massimiliano? Allora, cioè, Massimiliano, in che gruppi certo, Massimiliano proviene dal, anche lui di Latina, proviene dal punk hardcore, un grande ascoltatore di heavy metal. Uno dei suoi gruppi, oltre il nostro, è un gruppo storico del punk melodico italiano, i Senza Benza, che tra l'altro salutiamo Massimiliano Bergo se è in ascolto. E con l'occasione ricordo che sabato 21 luglio, quindi sabato tra tre giorni, suoneremo a Roma all'Alvarado Street Pub, zona Pigneto, e suoneremo proprio con lui, con Massimiliano Bergo, mentre l'attuale batterista dei Misanthropus è Andrea Vozza, con cui registreremo il terzo LP ad ottobre per la Domimood Records di Pio Santo Buono. Quindi un saluto anche a Pio. Un grande saluto a Pio. E uscita prevista della nuova produzione, più o meno si sa qualcosa? Ma l'uscita, la registrazione avverrà a fine ottobre di quest'anno, mentre l'uscita, sai, i tempi sono sempre quelli che sono. Comunque io credo che il vinile e il CD l'avremo agli inizi del 2013, se tutto va bene, ma mi auguro proprio di sì. Se ci siamo ancora, insomma. Se ci siamo ancora. Se i Mai avevano torto, esce il nuovo disco dei Misanthropus. Certo. Allora, a me mi era venuto in mente, sì, ascoltando i Misanthropus, vi collego musicalmente, quasi, poi ditemi se mi sbaglio, il vostro suono così essenziale, un doom senza fronzoli, no? Mi ricorda questo gruppo, lo ascoltiamo insieme, poi ne parliamo. Lo ascoltiamo tutti insieme, buon ascolto. Sad. Sad. Triumphatus sad. Triumphatus sad. E lui era Antonius Rex dai suoi Iacula del 1969, quindi andiamo un po'. No, trovavo questo paragone musicale tra la vostra, tra il vostro sound essenziale, e mi faceva ricordare, insomma, certo, Iacula. Antonius Rex, l'abbiamo anche contattato parecchi anni fa, anche i nostri due vinili, è un grande artista. E lui con Doris Norton, e comunque gli artisti italiani ne abbiamo, che ci hanno influenzato, ne abbiamo veramente tanti, tra cui citerei forse il personaggio che ci ha influenzato più di tutti, che è anche un nostro amico e lo salutiamo se ci sta ascoltando, che è Paolo Catena, con lo pseudonimo di Paul Chain, negli anni 80 e 90 e i primi 2000, e credo che lui con Mario The Black di Donato, per quanto riguarda il rock, l'heavy metal italiano, il dark doom, sono i personaggi che più ci hanno influenzato. Passo la parola a Vincenzo così può chiarire meglio. E se posso aggiungere, il legame con questi musicisti non lo trovo solamente unicamente per il lato artistico e musicale, sembra quasi, poi conoscendo queste persone, che ha avuto modo di farci almeno una chiacchierata, è il riconoscere una certa sensibilità, perlomeno a guardare il mondo da un'angolatura particolare. Senza dubbio, senza dubbio. Si dice angolatura? Angolazione. Però angolatura anche si dice. Allora, nella fattispecie angolatura grammaticale anche. Va bene, nella fattispecie, allora, Paolo Catena, come ha detto Alessio, conosciuto meglio con lo pseudonimo di Paul Chain, è secondo me, secondo noi, Il musicista italiano più importante del Novecento, magari la sparo un po' grossa, però effettivamente per chi conosce questo artista, questo grande artista, sicuramente ascoltando la sua vasta discografia che parte dai primissimi anni Ottanta, si nota una autenticità, un talento effettivi. I dischi che Paolo ha registrato durante più di 20 anni, la sua carriera comunque parte dal fine degli anni 70, sono dei dischi molto importanti e a livello nazionale e a livello internazionale. Purtroppo il suo genio non è stato valutato quanto meriterebbe. Ha spaziato dal dark al heavy metal, alla psichedelia, alla musica completamente improvvisata, alla musica per organo, alla musica elettronica, sempre supportato da un talento compositivo e da una capacità e di esecuzione davvero a livelli eccelsi. E quello che dicevi te effettivamente è vero, che a fronte di questa enorme forma artistica c'è una sostanza di grosso spessore umano e spirituale. Paolo è uno che ha anticipato di decenni tutto quel movimento che poi a livello mondiale è stato appunto il doom psichedelico. Queste cose lui le ha fatte in tempi non sospetti e inserendoci appunto una spiritualità non comune, una forza di penetrazione interiore non comune. E va riconosciuto questo valore altamente umano e artistico a un musicista che purtroppo in Italia, ripeto, a fronte di un discorso che non è il caso qui aprire, purtroppo è sottovalutato. Spero che con il tempo il suo valore venga riconosciuto per quello che è. Ma poi penso la scelta, insomma, del suo percorso di espressione e di vita, se posso aggiungere, diciamo, lo ricordiamo, ha iniziato con i Death SS, quindi aveva raggiunto anche una certa notorietà nell'ambiente metal, era comunque un gruppo di era uno dei pochi, insomma, che c'era all'epoca, e certo, lui ha scelto proprio di distaccarsi, certo, da tutto quell'ambiente, sia musicalmente che spiritualmente. Sì. E ricordiamo pure negli anni 80 il momento, insomma, anche del glam, anche del metal più commerciale, proprio patinato. Questo era un po' quello che andava in quegli anni. Lui ha scelto un po' l'introspezione sia musicale che è stato un precursore rituale. In ogni caso è stato ed è tuttora un precursore di altre sonorità, di altri generi. Quello che fa attualmente sicuramente lo rifaranno tra una decina di anni. E dopo tutte queste chiacchiere su Paolo, su Paul Chain, ce lo andiamo ad ascoltare. Certo. E che cosa ascoltiamo? Un pezzo scelto da Vincenzo. Allora, un pezzo scelto da me, a cui sono particolarmente legato, si intitola Resurrection in Christ. Ed è un pezzo bellissimo, secondo me, perché non è classicamente dark doom, anche se poi è molto crepuscolare come sonorità. Ma diciamo, c'è un che di psychedelic garage, se così posso dire, che rende questo pezzo di un fascino, secondo me, irresistibile. Il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso. Yeah. E questo era appunto Paul Chain con la sua Resurrection in Christ. Il disco di che anno era? Allora, il disco è dell'87. Life. 1987. Si intitola Opera Furti. E uscì per Minotauro Records, un'etichetta di Pavia, storica etichetta dell'heavy metal italiano di quegli anni. Ma scusa se riporto così bruscamente la storia che ci eravamo raccontati prima, che magari la possiamo raccontare anche agli altri all'ascolto. E il disco, questo appunto, era dell'87. Nell'88 che cosa succede, Alessio? Sei andato? Ah, certo. Infatti, dove sei andato? Nell'89. No, pensavo che disco usciva dopo l'88. Mi devo ricordare di scrivere le battute. Ok, nell'89 io e Vincenzo, quindi molto giovani, che facciamo? Partiamo per Pesaro per conoscere appunto Paolo Catena. E questo viaggio memorabile, storico. E per noi logicamente un viaggio indimenticabile e alla scoperta di Paolo Catena. E come è andata? È andata benissimo. Lo abbiamo incontrato, lui, tutta la famiglia, la sorella, abbiamo visto la sua casa, i suoi strumenti musicali. Siamo stati due giornate con lui e due giornate logicamente indimenticabili. No, ma anche un mio amico è andato a trovarlo. Bene. Lui, anche lui, un mio caro amico. Sì, un ectoplasma. Anche lui. Sei andato te personalmente a trovarlo qualche anno dopo? Ma questa poi incontro, questa qui è rimasta una conoscenza estemporanea? Oppure poi. No, ci sentiamo tuttora. Ci sentiamo tuttora. Okay. Però se Paolo è all'ascolto. Sappia che comunque chi ci fa l'intervista è andato a trovarlo ed è un suo caro amico. No, magari si ricorda questa cosa che non penso che altre persone ha trovato al mondo, che condividevano la sua stessa passione, che era quella di collezionare etichette delle banane. E in pratica per un periodo ci siamo anche scambiati le etichette delle banane con Paul Chain. Spero che insomma ricordi con affetto questa. Troppo metal questa cosa, eh? Questa era molto metal, cioè, non molto so che, dark, cioè, non so che di patologico comunque. No. Tutto questo grande appassionati di potassio. E niente, dopo questa confessione facciamo un tuffo nel passato come nostra abitudine, visto che siamo fantasmi estemporanei. Che inizi il sacrificio. Ancient days and other lives long past but not forgotten, I've learned the power of mind and flesh to have my will obeyed. And Adonai and Babylon, Etruscans and Egyptians came to my temple, journeyed to the valley of the moon, deep underground where no light dared to come beneath my pyramid. I stood in hell, a mortal man between Belial and Satan, for my audience and chances like old fear. I cured her, struck with sickness, death, or made insane my foes. Here in my 13th life, the mystic power of old returns, and as I say these words, my soul again in hell. I conjure thee, I conjure thee, I conjure thee, I conjure thee, appear. I raise you, mighty demon, come before me, join me here. ed andava a iniziare così il discone Sacrifice 1969, se non erro, e Black Widow è il gruppo inglese. Un disco da ascoltare solo intero, però resistiamo alla tentazione e prima di andare a passare il prossimo pezzo andiamo a ricordare i contatti della radio. Il telefono per i vostri trilli in rosso è lo 0649 1750, per l'SMS il 342 3574 357. Le 23.45 è l'orario. Radio Onda Rossa, la radio. Ed allora, Vincenzo, che ci andiamo ad ascoltare? Che cosa hai scelto? Allora, abbiamo scelto del nostro CD uscito l'anno scorso, edito da Dumi Mood Records di Pio Santobuono, che risalutiamo, e abbiamo scelto Transformation, che è una traccia atipica per noi, e cioè non strumentale o in parte, perché la coda del pezzo viene accompagnata da le phonetic vocals di Francesca Luce, che salutiamo, che ci accompagnò in quell'anno nel 2003, perché questo CD del 2011 in realtà è una ristampa di un EP del 2003 con 5 pezzi inediti, perché noi registrammo un secondo LP in quell'anno. Adesso magari gli ascoltatori crea un po' di confusione, comunque chi ci conosce forse ha capito. E niente, dicevo, abbiamo scelto questo pezzo che presenta le phonetic vocals di Francesca Luce, una cantante importante nella scena romana, perché editò insieme al gruppo Marbre Noir un EP nel 1986 per, se non ricordo male, per la Mantra Records, che era l'etichetta di Disfunzioni Musicali. Francesca ci ha accompagnato nel 2003 per questi due pezzi. Noi andremo ad ascoltare il secondo, Transformation, in un esperimento che usciva un po' dai nostri canoni, cioè l'inserimento di una voce femminile nei nostri pezzi. Esperimento che poi però si è fermato lì, perché noi abbiamo continuato a proporre una soluzione completamente strumentale. Il pezzo è Transformation. We'll be right back. No, dico, mica c'è problema, perché... No, mi scuso con gli ascoltatori, C'è stato un misunderstanding. Sì, sì, purtroppo ho fatto io un errore visivo, e cioè abbiamo mandato sì Transformation, ma la versione strumentale, quindi purtroppo non avete potuto ascoltare le vocals fonetiche di Francesca Luce. Chiedo venia a tutte e tutti, e soprattutto a Francesca. Ma comunque ci ritorniamo, perché noi siamo fatti così, ci piace sbagliare. E nel frattempo che risistemiamo il tutto, ci andiamo ad ascoltare un'altra cosetta, una di quelle che ci piacciono a noi, eh? Ho toppato. Sì, hai toppato. E questo era il sussurro di Francesca Luce. Esatto. Il pezzo era Transformation e loro sono i Misanthropus. Esatto. Stavolta ci abbiamo azzeccato. Francesca Luce alle phonetic vocals, una caratteristica che abbiamo mutuato proprio da Paul Chain, Paolo Catena, nel nostro esperimento del 2003. E, andiamo a ricordare il concerto di sabato, che sarà all'Alvarado Street. Sì, che non conosco, mi dicono un pub nuovo relativamente, io non conoscevo del... E suonerete con Focus Indulgence e Anno Mundi. Sì, sono gli altri due gruppi dell'etichetta di Pio, della Dumi Mood, con cui intraprenderemo questa serie di concerti a partire appunto dal 21 prossimo, questo, diciamo, chiamiamolo con una parola un po' altisonante, questo tour estivo che si protrarrà per gli altri mesi, insomma. Che genere fanno gli altri gruppi? Allora, i Focus Indulgence fanno un crossover, un misto tra sonorità dark e sonorità degli anni 70 tipicamente italiane, quindi un progressive italiano cantato in italiano e dark doom metal, insomma, con un esperimento molto ben riuscito. L'altro gruppo dovrebbe fare un canonico doom metal, non li conosco, non li ho ancora ascoltati. Vabbè, lo scopriremo sabato. Sì. Ci andiamo ad ascoltare un altro gruppo romano, della scena romana, i Doom Razor, che salutiamo, che sono dei grandi amici. Saluto calorosamente a Nicola, Andrea, Peppe e il Pin. E Willer. Mm-hmm. ed il pezzo era Like a Ghost dei Doomraiser, dal loro Mountains of Madness. E ricordavamo appunto con i Misanthropus, c'erano anche tra gli altri pochi anche i Doomraiser, che condividevano un po' i primi spazi una decina d'anni fa circa. No, stiamo ricordando i primi posti in cui suonavano i Misanthropus. Certo, i primi posti in cui abbiamo suonato, gli Squat, logicamente, romani e anche italiani. Ma Squat anche improvvisati, no? Beh, posso citarne alcuni. No, ricordo che avete suonato anche in una stalla. Ah, sì, quello a Nettuno era una stalla, anzi, Nettuno, una stalla occupata. Comunque, i primissimi concerti dei Misanthropus. Cioè, scusa, una parentesi, occupare una stalla fa molto punk. Era molto punk. Poi noi l'altra volta abbiamo aperto pure una parentesi sulle mucche, no? Sì, che no? Dovremmo poi rifrequentare, insomma. C'è un dibattito aperto sulla pezzatura delle mucche e sull'identità sessuale delle mucche. Comunque, poi magari lo approfondiamo un'altra volta. Va bene. No, vabbè, venendo sempre al filone del discorso che stavamo impostando, insomma, prima inizialmente appunto questi squat, questi posti occupati, occupazioni socio-abitative, eccetera, eccetera, e poi adesso invece mano a mano forse sono finiti quei posti o forse non ci si suona più, o come è cambiata la scena, e adesso insomma invece che tipo di rapporto c'è con i concerti, cioè suonate spesso, in quali posti, se è facile, se si viene chiamati, o comunque qual è poi nella scena l'approccio a live, insomma, a poter fare, certo, il concerto. Allora, inizialmente abbiamo suonato negli squat, anche nei locali, e anche negli squat più estremi, senza, logicamente faccio i nomi dei posti occupati, anzi massimo rispetto per queste realtà, e ringraziamo logicamente molti ragazzi che occupano tuttora questi posti, che sono anche dei nostri amici. E niente, attualmente suoniamo in vari club locali che comunque hanno e fanno questo tipo di ascolto musicale. Come ha detto poco fa Dario, suoneremo sabato all'Alvarado Street, che è un bellissimo locale del Pigneto. Comunque, ecco, ribadisco il massimo rispetto per tutti gli squat italiani e romani, soprattutto, che ci hanno dato l'opportunità di fare, chiamiamola, la nostra gavetta, e forse sono stati i concerti migliori e anche per molti e per noi indimenticabili. No, anche perché insomma non so, rispetto pure per l'apertura mentale di far suonare un gruppo di Doom sperimentale, che all'inizio, magari 10 anni fa, non era neanche tanto comune di vedere. Facciamo anche 14 anni fa. Ecco, anche 14, quindi non era così comune magari di capitare in uno squat e sentire un Doom strumentale. Sai, scusa, come dicevamo all'inizio, proprio te hai detto punk Doom. I Misanthropus, le radici dei Misanthropus vengono dal heavy metal, dal punk, dal dark, da tutto quello che noi siamo stati in ogni caso, e quindi credo che questo ci ha facilitato anche nel suonare in certi ambienti. Che ricordiamo, scusa se ti interrompo, che ricordiamo, insomma, questi posti occupati in ogni caso sono anche da valorizzare, perché effettivamente danno l'opportunità a dei gruppi, adesso mi tolgo io, ma dei gruppi che comunque sono stati sempre all'avanguardia. In ogni caso sono posti in cui è più facile paradossalmente trovare una proposta musicale più avanti rispetto a quello che poi sono le proposte canoniche dei locali standard, se così si può dire. Forse la sperimentazione progettazione c'ha bisogno comunque di alti gradi di libertà, di alti gradi di... Sì, dici bene. Invece adesso, diciamo, siete soddisfatti del movimento che ci sta? Cioè, nel senso, riuscite a suonare quanto volete, troppo poco, troppo? Troppo no, non suoniamo troppo. Suoniamo forse troppo poco, ma non dipende da noi. Dipende... sai, noi non siamo... Non avendo neanche il computer, sai, non come si dice, navigando sul web, non è che noi siamo rimasti ancora col telefono. È da poco che abbiamo un cellulare, non avevamo neanche il cellulare, quindi per i contatti, guarda, ti ripeto, siamo stati molto fortunati per quanto riguarda il contatto con la Dumi Mood, ma noi siamo rimasti veramente degli artigiani della musica. Più per passaparola, insomma, con il passaparola noi che siamo funziona ancora, però. Siamo ancora per l'attacchinaggio, per il classico flyer, sai, adesso c'è il classico evento sul web, e noi non ce ne frega nulla di questo, ti devo essere sincero, ma è perché è proprio così, perché non abbiamo computer, non abbiamo i mezzi, ma non perché non li abbiamo, perché non li vogliamo. Poi chi fa questo per noi lo ringraziamo tantissimo, ed uno di questi è proprio Pio della Dumi Mood. Grazie Pio. Va comunque detto, Alessio, tu sarai d'accordo, ma anche i ragazzi che sono qui, che comunque non demonizziamo questo tipo di mezzi che abbiamo. Però un po'. È un fatto di scelta, perché comunque vanno rispettati tutti coloro che ne fanno uso in maniera efficace, in maniera contemporanea, insomma. No, mentre parlava Alessio, mi faceva riscontrare direttamente quello che un po' eravamo andati a raccontare in qualche trasmissione passata, in cui abbiamo ascoltato un po' di Doom, anche canonico, e il filo comune un po' pure degli assoli sguaiati, è un po' la filosofia del... Sì, vabbè, ma in finale sti cazzi. Un po', insomma, la filosofia sana del Doom, no? Come no? Ma guarda, io di assoli su... Nel senso buono, eh? Certo, sui vinili, sui dischi ne faccio ben pochi. Forse dal vivo mi faccio prendere un po' di più, sai, dalla situazione, e inizio a improvvisare, perché poi non sono degli assoli, sai, programmati, ma noi ci basiamo anche tanto sull'improvvisazione live. E ogni tanto qualche assolo esce nei live. Ma niente di così eclettico... E dopo questo dopo questa dissertazione sugli assoli, mi viene in mente il pezzo che ha scelto Vincenzo, un po' un classicone. Allora, io mi ricollego a quello che dicevi tu all'inizio, no? Rispetto a, comunque, al fattore heavy metal. Io infatti all'inizio dell'intervista ho precisato che in questo grosso calderone dell'heavy metal, quindi si parla dalla fine degli anni 70 con la New Wave o British Heavy Metal fino ad oggi, si sono distinte sicuramente una serie di band, tra cui alcune ci hanno influenzato in maniera veramente incisiva, proprio perché si distaccavano un po' da quelli che sono i canoni che tu hai ben evidenziato in maniera un po' becera, no? Il fatto che comunque l'heavy metal presenta delle caratteristiche un po' negative su certe cose, cioè un certo tipo di estetica un po' magari troppo esagerata, un certo tipo di proposte musicali un po' troppo arzigogolate, un po' troppo pompose, diciamo così. Tutto questo calderone, dicevo, sì, sono distinti vari gruppi, da cui mi piace citare sicuramente i Saint Vitus, che hanno mantenuto fin dall'inizio un'attitudine molto punk rispetto a quello che dicevamo adesso. Uscirono per la SST, che era l'etichetta dei Black Flag, esatto. Per quanto riguarda il punk. Quindi un gruppo heavy metal che si caratterizzava in positivo rispetto a quello che era poi la barbarie del genere. E nello specifico ho scelto di mandare in onda un pezzo molto interessante di un altro gruppo molto interessante, si chiama Manila Rod, che se ne uscirono nel 1986 con un disco capolavoro intitolato The Deluge. dove praticamente nei vari testi dei pezzi ci sono echi e citazioni da autori di una certa caratura del gotico americano, no? Quindi non so, i soliti cliché sesso, droga e rock and roll, ma bensì ecco Mark Shelton, il leader dei Manila Road, che se non ricordo male ha anche una laurea in antropologia, se ne uscì con questi testi che si basavano sul gotico americano, quindi Edgar Allan Poe piuttosto che Howard Philip Lovecraft oppure Robert Erwin Howard, no? Quindi i classici del gotico epico americano, per evidenziare che nell'heavy metal ci sono tante cose interessanti, c'è anche uno spessore, insomma. L'anno d'uscita del disco è 1986, questo è un disco uscito per una etichetta indipendente all'epoca piuttosto famosa, che è la Black Dragon di Parigi, e il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola Shadows in the Black. Vortex of fire, the gateway to all the outer planes where lights of magic maintains. Circle beyond all time, feeding the tree with white light. Demons in dark disguise shall never break the lifeline before the throne. Demon of Ra, not flesh nor bone, a shadow in the blood. Cryptic the spiral way, even so in the space age. Leaving rectors dismayed, seeking out wisdom's daybreak. Hidden by dark night, not even seen by hindsight. Spectre who plagues the mind, a box inside the limelight. We'll be right back. ed il pezzo era Shadows in the Black. Loro sono i Manila Road, che ancora galoppano in sottofondo. E che ci andiamo ad ascoltare, Alessio? Vogliamo introdurre un'altra fase della tua vita. Ma suonate ancora con gli Scum of Society? Allora, no, purtroppo non suoniamo più con gli Scum of Society. E adesso ci andiamo ad ascoltare un disco inedito, cioè dovrebbe uscire, me lo auguro. E questa registrazione che abbiamo fatto circa 3 anni fa con i miei amici Matteo e Gabriele, e io, a differenza dei Misanthropus, dove suono la chitarra, negli Scum of Society inizialmente suonavo il basso, e su questo disco suono la batteria e anche molto bene. Va bene, quelli sono punti di vista. Tengo a precisare, sono angolature. Esatto, gli Scum of Society sono stati, è tuttora, per quanto riguarda la musica, un gruppo fondamentale del punk hardcore italiano, un gruppo storico, non voglio peccare di presunzione, comunque è così. Abbiamo girato tutta l'Italia, abbiamo fatto anche varie tournée all'estero. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è molto bello, si intitola Europa Unita, è un pezzo, come ho detto poco fa, dove suono la batteria. Ci sono anche nella seconda parte della traccia dei miei assoli di chitarra. È dedicato ai ragazzi del Jolly Roger, Scum of Society. Come dicevo, nel ritornello questo pezzo, Alessio? Europa Unita, Europa Nazione, e adesso non me lo ricordo. Comunque, l'Europa Unita è stato tutto un bluff. ripeto, un gruppo fondamentale del punk hardcore italiano. E non, come ripeto, non voglio peccare di presunzione, ma è stato un gruppo fondamentale, storico. Ma quando avete iniziato a suonare? Il primo demo tape è del 95, dove suonava il basso, e mentre questa registrazione, come ho detto poco fa, è di 3 anni fa circa, ed è l'ultima registrazione che abbiamo fatto con Scammo Society. E dopo gli Scammo Society ci prendiamo un momento di pausa musicale andando in decompressione. My soul, my tube, my pain, my joy. ed il pezzo era Drown in Ashes, il gruppo è Celtic Frost, e raramente vi andiamo a consigliare dischi da queste parti, e il disco consigliato appunto, insomma ascoltatelo, fateci sapere, ma è Monotheist, l'ultimo dei Celtic Frost. Ed andiamo a continuare questo viaggio oscuro. Il nuovo spirito ora è Triptychon. Cast into a bottomless pit of pain. e questa è l'ultima incarnazione di Warrior Fisher, leader dei Celtic Frost, ed ora con i Triptychon, il pezzo era Shatter. E Vincenzo voleva forse aggiungere qualcosa su... Sì, visto che stiamo entrando un po' nella filologia della musica rock, e nello specifico nella parte più all'avanguardia dell'heavy metal, mi piaceva aprire una parentesi a proposito, no? Te giustamente adesso ci hai proposto questi due ascolti molto interessanti, ne parlavamo anche con Luigi qui in studio, dove effettivamente all'epoca i Celtic Frost, io ho sempre chiamato Celtic Frost, lo so. Però no, tu è un difetto mio, no, non è un difetto, anzi mi correggevano, mi hanno corretto una volta proprio a proposito. I Celtic Frost, dicevo, sia all'epoca ma anche tuttora, sono considerati l'avanguardia, la punta di diamante dell'avanguardia dell'heavy metal. Però io a tale proposito volevo aprire questa parentesi, cioè che anche noi in Italia, a proposito di Paul Chain, di Paolo Catena, abbiamo avuto questo musicista che è alla pari, se non superiore, agli stessi Celtic Frost, che se ne uscì nel 1988, quindi in tempi non sospetti, contemporaneamente, credo l'anno dopo l'uscita di Into Pandemonium di Celtic Frost, che è unanimemente riconosciuto come il disco più importante dell'heavy metal. Se ne uscì con questo Ash, Cenere, che è un EP editato dalla Minotauro nel 1988, sempre a proposito di filologia musicale italiana nell'heavy metal, dove Paolo Paul Chain propose questo disco di un misto dark, che purtroppo non abbiamo qui in studio, questo misto tra dark, doom metal e speed, dove c'erano anche degli interventi, e nello specifico un pezzo che faceva eco addirittura a richiami di Igor Stravinsky e anche a una certa musica contemporanea tipo Webern, Berg, tutti questi autori dei primi del Novecento. Quindi attenzione, care ascoltatrici e cari ascoltatori, quando si parla di musica italiana vera, andatevi a riscoprire questo genio autentico che è Paolo Catena, che in tempi non sospetti se ne usciva con una musica realmente avanti, realmente valida, realmente di talento e artisticamente suonata benissimo. Non fatevi ingabbiare da quei soliti discorsi che all'epoca la musica italiana rock di valore erano i Litfiba eccetera eccetera eccetera, specchietti per le allodole. Se potete, andate a ricercare questo musicista italiano che veramente ha dato tantissimo senza ricevere quello che ha dato a questo nostro paese. E nello specifico purtroppo non abbiamo nessun pezzo da Ash, che non possediamo la versione in CD, ma ci andiamo ad ascoltare, grazie al buon Dario, un pezzo molto bello tratto da Alcaist, un altro capolavoro del maestro pesarese. E il pezzo si intitola Rose of Winter. Mi scuso con gli ascoltatori per la mia pronuncia terribile dell'inglese. Io penso che è stato talmente convincente che l'assumiamo. No. Perfetto, sei assunto. Uno dei più bei pezzi doom della storia mondiale, Roses of Winter. Paolo Catena, pseudonimo Paul Chain. I give to lose the sake of mine. ed è ancora in chiusura. Questo è dal disco Alchest e l'artista è Paul Shane. Ed andiamo a chiudere un po' l'intervista. Andiamo a chiudere l'intervista di questa sera con i Misanthropus. E andiamo a ricordare questo sabato il concerto dei Misanthropus con Focus Indulgence e Anno Mundi all'Alvarado Street Pub, zona Pigneto. Volevamo ricordare qualcos'altro, professore? Sì, non lo so se... sì. No, sapete senz'altro della campagna, insomma, che, di cui la radio ha fatto parte, che avete già visto qua i vari loghi, eccetera, la campagna così, che con questa veste grafica divulgativa abbiamo chiamato 10% anni di carcere, Genova 2001 non è finita. Ecco, nell'inchiesta, l'ultima praticamente ancora in essere, che appunto si è conclusa proprio qualche giorno fa con la sentenza di Cassazione riguardo i fatti di Genova, appunto 10 compagni, 10 ormai non più possiamo dire ragazzi perché sono passati parecchi anni, 10 persone sono state rinchiuse praticamente nelle galere, fra tutti loro, insomma, quello che più è vicino a noi della radio, insomma, eppure così alla scena romana, è un personaggio piuttosto conosciuto, è Alberto Fagiolino, qui che curava una trasmissione fino a poco tempo fa, appunto in Noctibus Panis, e adesso, diciamo, impossibilitato anche in questa, una delle sue tante attività, insomma, che la libertà, tra virgolette, quella libertà così anche un po', ecco, che opponiamo alla prigionia, ma in realtà non è una vera e propria libertà. Comunque, insomma, Fagiolino invece, Alberto, è persona che la libertà se la sapeva vivere bene, insomma, le sue scelte le ha sempre fatte con grande coscienza e con grande coerenza. E forse proprio questo suo scegliere sempre con questa coerenza, e l'essere coerente l'ha portato alla fine ad essere condannato a 10 anni di galera, che sono veramente tanti, anche appunto in virtù, vabbè, di un gioco così di reati ripresi dal codice Rocco del ventennio e utilizzati come devastazione e saccheggio a mo' di clava contro quelle che sono le insorgenze sociali. Ecco, voi conoscete l'altro Alberto, perché... Guarda, la libertà, parole, sì, vai. La libertà è una cosa sacra. Massima solidarietà a Alberto, che tra l'altro conosco. Ribadisco, la libertà è una cosa sacra. I più grandi auguri ad Alberto, e che esca subito, e ripeto, grande e massima solidarietà ad Alberto e a tutti i ragazzi imprigionati. Ed il prossimo pezzo, con il prossimo pezzo che andiamo a salutare, e un appuntamento alla trasmissione di mercoledì prossimo, un saluto caloroso ai Misanthropus. E grazie a voi, grazie a te, a voi tutti, e grazie a Radio Onda Rossa che ci ha dato, ripeto, questa opportunità di farci questa chiacchierata molto divertente, molto divertente e articolata. Grazie a Radio Onda Rossa. E grazie a voi, e ci andiamo ad ascoltare questo pezzo che parla appunto di libertà.